questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, il nostro appuntamento con il Radio Tube del sabato 18-19 tutti i sabati per parlarvi un po' di web, di TV, di social TV. Sai che io direi che secondo me noi parliamo soprattutto di realtà, caro Daniele. Parliamo di quello che di realtà. Sì, sai che questa è una puntata strana, ma strana. Perché devo avere paura? Devi avere paura, io soprattutto. No, è strana, è molto strana. Nonostante questo, ho due sorprese finali. Stai lì. Sto qua, non vado a condurre. No, rimango qua. Sei la conduttrice, continua a condurre. Sì. Allora, et Marta Cagnola, et di Bellasio, l'hashtag RadioTube, da lunedì il podcast sul sito www.radio24.it. Puntata strana che però parte con un po' di musica, perché qualcuno ha lanciato una sua televisione. Giovanotti ha lanciato la Giova TV. Sulla Giova TV ha lanciato delle sue cose nuove. Ma sentiamolo subito cosa ha lanciato Giovanotti. In un menù di un ristorante che vende polpette nel retro del menù di un ristorante che vende polpette ho scritto le prime sei date del tour, ragazzi. Ieri così mi è arrivato come un fulmine a ciel sereno, perché sai, le cose le progetti, le pensi, però poi quando le vedi scritte e poi cambia tutto, perché allora vuol dire che proprio si va, cioè si riparte in tour. Perché finché uno sai da sì, è un po' così, no? Poi quando, è un po' come quando dici il mio babbo a Natale mi regala una bicicletta. Ah, la bicicletta, poi quando la vedi che ti arriva lì, ti senti responsabilizzato, no? E quindi non ci dormi, no? Non ci dormi di notte, non vedi l'ora la mattina di... no? A me capitava così. Che bella questa storia della bicicletta, bello sfondo. Era New York, su questa terrazza della mia città del cuore. Vabbè. Della tua città, non era Vimercate. Hai già tradito Vimercate con New York. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra la città natale? Ma perché la puntata è strana? Perché tu già parti con degli accostamenti in questa scaletta dadaista. C'è una ragione per cui. Allora, Giovanotti ha fatto una sua TV. Sì. E Lori del Santo, perché non può fare un suo film? E che film? Ti avviso che sto per difenderlo. Allora, Lori del Santo ha annunciato... Ma sono seria. Ti scappa da ridere. Ma no! Il suo primo film, The Lady, un piccolo gioiellino della cinematografia mondiale, almeno lo dice lei, che verrà reso noto poco alla volta con delle pillole... Sul web. Su YouTube, così, centellinate. Centellinate. The Lady, basta trovarlo su YouTube, ma noi vorremmo farvi sentire... un estratto, un dialogo di questa anche se in rete, io direi comunque di questa pellicola. Peccato che non puoi far vedere il nitore di queste immagini. Ma sentiamo The Lady. Ho tanta voglia di vederti, non mi chiami mai. Hai ragione. Io ti amo, dovresti rispettare il mio sentimento. Sei molto sexy, voglio tenerti nella mia vita. Hai dei viaggi in programma? Sì, Capri. Devo andare per seguire un servizio fotografico, una campagna pubblicitaria di costumi da bagno. Poi mi fermo a Napoli per incontrare un nuovo cliente e poi Parigi. Luna, ma cos'è l'amore per te? Frammenti di tante emozioni. Dai, andiamo che faccio tardi. Ma senti, ma questa definizione dell'amore, allora, ma che poesia. Sì, a parte la poesia dei dialoghi, che è veramente indubitabile, ma soprattutto io veramente le immagini sono belle, è proprio bello. Vedi lì la nuova piazza di Gaia Aulenti, vedi, io te l'ho detto, ha girato prima. Tutto lei. Guarda, ha girato tutto, cameraman, ha fatto tutto, soggetto, che è costato lo stesso tanto. Sì, e l'ha girato in 15 giorni. Bisogna, che c'entra? Adesso è la durata che conta. Ma secondo te chi potrebbero essere i suoi maestri? Perché secondo me... Io te lo volevo dire, proprio ce l'ho sulla punta della lingua, spero che non mi querelino, però a me ha ricordato alcune scene di Gomorra. Hai presente quando loro vanno a Milano, che si vedono sullo sfondo i palazzi stupendi di Milano? Sì? È lo stesso nitore, la stessa freschezza di immagini, quella luce così chiara che è contemporaneamente l'inferno e il paradiso. Aspetta, devo riprendermi un scrivi, attimo. Scrivi, no? Scrivi, c'è traffico. Guarda, c'è il traffico. C'è mi potrebbe salvare. Tra no. qualche secondo c'è la il traffico. La qualità quindi... non è male. La qualità non è male. Allora, Lori del Santo, in attesa del film completo, The Lady. E poi sai che a me gli esperimenti, qualunque esperimento nei limiti del penale, diciamo, qua ci siamo, io lo approvo. Comunque, vorrei solo dirti che lei ha detto, questo sì. film è un'opera prima mia totale, è costato totale. Molto nonostante tutto quello che ho fatto io. L'ho pagato da sola perché volevo farmi un regalo e questo, brava Lori, devo Bravissima. Dire veramente brava Lori, ho fatto tutto da soggetto alla sceneggiatura passando dal casting al montaggio, luci comprese, l'unica cosa di cui non mi sono occupata è il trucco, ovviamente però avevo delle assistenti che mi portavano le valigie. Grande Lori, sei tutti noi, straordinaria, una Anche donna tu straordinaria. Che ti portano le valigie. Che mi, pieno di assistenti io che non mi lo faccio adesso qua. Dopo, quando c'è il traffico, vediamo, c'è il traffico. Vediamo. C'è il traffico e ci ritroviamo tra poco per parlare di argomenti scottanti, scottantissimi tra poco. Di più. Radio Tube. Bentornati con il nostro Radio Tube. Vabbè, abbiamo parlato di argomenti ameni, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di cose divertenti. Dai, un torniamo. Po' di cose serie. Sì. Torniamo a parlare torniamo di televisione, di programmi politica. Impegnati, di politica. E sai, sai cosa ha fatto discutere tantissimo la rete questa settimana? Tante cose, dimmi, aiutami. La pizza, fuocherella. Ma in realtà tutti hanno parlato di pizza? Ah sì, per la storia della Gabanelli. Sì, infatti, ascoltiamone sì. proprio solo un pezzettino. Ecco perché hanno parlato tutti di pizza. Avete mai notato quando viene infornata la pizza in che condizione il forno? Spesso c'è una nuvola di fumo nero e sul piano cottura macchie di farina, ingredienti e trucioli. Ma col fumo nero non fa male, eh? No, no. Fa bene. Sì, sì. È legno, è faccio. È faccio. Quanti gradi ci sono là dentro? Al momento all'incirca 400-500 gradi. Quel fumo nero non può danneggiare... Il forno è fatto proprio a cupola, proprio per questo, perché non toccherà mai la pizza. Se tu la inquadri, guarda, sì. di sopra della pizza. Io faccio questa prova della pizza al forno, no? Secondo lei cosa trovo? Come se in autostrada. Ah, sì? Lo stesso che respira in autostrada dietro un camion. Ecco qua, le migliori pizze di Napoli. Mangiate e vedrete. Mangiamo e vediamo. Buonasera, ci manca solo che in un periodo come questo ce la prendiamo con le pizzerie. Ma ci manca solo che ce la prendiamo manca, con le ce pizzerie, la siamo se la, ce la siamo presa cioè, con le l'ultimo pizzerie. Baluardo, diciamo, dell'italianità, tanto per demoliamoci, giusto, ma via. Così, quindi tutti abbiamo passato la settimana sì, a guardare, a ordinare parlare. Comunque la pizza, a guardare sotto la pizza. E non abbiamo vedere, guardato più nessun sì. talk show, visti i crolli, ci sono macerie di talk show ovunque. Ma secondo me, allora, ritorniamo alla nostra eterna domanda. Eterna il domanda. Talk show. È vivo, è vivo o è morto? O è morto? E già, già la domanda fa crollare l'audience radiofonica. No, è perché secondo me qualcuno questa settimana sì. ha dato allora, la risposta. A un certo punto su Twitter Filippo Facci, editorialista sì. di Libero, sì. ha scritto: qui non è che è morto il talk show, è che è morta la politica. Ma mi quindi piace una come... tesi molto chiara e netta. Mi piace. Sai con chi vorrei parlare di questa tesi molto chiara e netta? Parliamone direttamente con Filippo Facci. No, buonasera Filippo. Buonasera, buonasera. Beh, allora, su Twitter hai lanciato appunto questa tesi fulminante, chiara, senza possibilità di equivoci, non stanno morendo i giornali, lo diceva appunto, lo leggeva poco fa Daniele, non stanno morendo i talk show, è morta e sepolta la politica. Non male come, come affermazione lapidaria. Sì, appunto, lapidaria come non può non essere su Twitter, anche perché naturalmente non è proprio che stanno subito morendo i giornali, non è che subito stanno morendo tutti i talk show, e però una cosa è certa, è morta e sepolta la politica e quindi questo si riflette sul talk show e sui giornali. Per ora ho detto un'ovvietà, ma che cosa voglio dire? Che alla fine è per la noia assoluta di vedere che in questi talk show alla fine di che si parla? cioè si parla di amministrazione, non di politica, si parla di pezze, di toppe da mettere, di manutenzione, di tentativi di limitare politiche che sono state fatte, sì, ma dai governi vecchi, precedenti, insomma, non c'è un programma, non c'è semina, non c'è soprattutto un'idea di futuro, cioè una specie di primum vivere, e dopodiché c'è un cicaleccio spaventoso e arido. E francamente, allora, se uno deve vedere uno scontro che alla fine sconfina nell'infotainment, allora si guarda direttamente, come posso dire, il tainment senza l'info, si guarda direttamente Rambo e buonanotte. Tra l'altro tu su Libero me l'ha segnalato la mattina presto, mandandomi già uno screenshot, Daniele Bellasio, avevi proprio giovedì un appunto a The Talk Show Must Go On, mettendo in scena una esilarante, ma ai noi del tutto reale, perché noi insomma sì, le abbiamo viste, riunione di redazione. Noi le facciamo via mail. Se fossero di persona. Con il problema degli ospiti da invitare. Il problema degli ospiti è appunto grottesco, può far ridere a pensarci, ma alla fine drammatico nei fatti, Filippo. Sì, sì, lo è. Io l'ho vissuto anche da vari punti di vista, nel senso sia perché sono stato per un lungo periodo un ospite abbastanza richiesto del circo, diciamo, finché mi sono un po' tirato via, e poi perché ho anche per un breve periodo condotto un programma sulla 7 dove c'era questo problema quotidianamente, che era 8:30. Alla lista dei lavori usuranti, i sindacati e la CGL dovrebbero aggiungere anche quello di quello che cerca gli ospiti per i programmi. Perché ogni giorno, dovete sapere, ma in parte appunto è immaginabile, c'è questa spasmodica ricerca incredibile. Io ho calcolato che ci vogliano circa 90-100 ospiti al giorno, almeno questo era per la stagione precedente, adesso sono ancora di più, di gente e anche mezze calzette, mezze figure, che voglio dire, vengono corteggiate perché alla fine vanno a un programma, no, aspetta, no, per non andare da quell'altro, no, vieni qui, ascolta, noi ti trattiamo meglio. Mezze calzette che, capito, in condizioni normali nessuno si curerebbe di loro, e che appunto adesso assurgono a questa specie di fama autocentrata, per cui insomma veramente li vedi dappertutto e in qualche caso ti chiedi anche ma questi quando lavorano. Senti Filippo, ma non sarà anche che un po' il talk show ce lo facciamo tutto il giorno sui social network, su Facebook, su Twitter, li vediamo, li rivediamo e quindi poi alla sera non li guardiamo più? No, questo è un discorso figlio della presuntissima elite che sta su Facebook e su molto di più su Twitter. Alla fine stiamo parlando, e lo sappiamo tutti, di un'estrema minoranza che è francazzista totalmente, però il problema è un altro, io credo di non essere ancora riuscito a dirlo, insomma. Ed è il fatto che in realtà manca la sostanza, la carne, la ciccia. Ma sì, voglio dire, tutta sta roba di cui si parla da qualche anno, mi viene da dire è economia, e forse sbaglio a dirlo in questa radio, però ecco, fino a qualche tempo fa io mi limitavo a dire una cosa che già oggi è fantascienza in TV: quando non mi reputavo competente in un tema mi dicevo no grazie, non vengo. Dopodiché tutto è diventato economia, tema del quale io mi arrogavo di non capire, ma alla fine appunto il cicaleccio è qualcosa che riempie il vuoto colossale di cui i partiti sono responsabili da anni, in parte, intendiamoci, un po' in tutto il mondo, ma in Italia in particolare, che è quello che dicevo prima, l'assenza di una vaga idea di futuro, cioè di una visione del nostro paese, come sarà fra 10 o 30 anni, cioè la politica vera è questa cosa qui, fuori c'è un pianeta che cambia, che è già cambiato velocissimamente, lo sappiamo tutti, c'è un paese da ricollocare geoeconomicamente, politicamente, invece si parla e si blatera, come se la crisi fosse una parentesi da superare, no? Come se il compito dei politici fosse quello di farci rientrare velocemente in carreggiata e tornare come ai vecchi tempi, il lavoro, i sindacalisti si scandalizzano della delocalizzazione, insomma tutti parlano come se potesse tornare un passato che non tornerà più, e alla fine sembra un'enorme litigata attorno a un presunto pareggio di bilancio che non arriva mai, per cui è chiaro che ci si rompe le palle. Però, però Filippo, abbiamo un primo ministro che parla spesso di futuro, dicono. Sì, sì, ne parla, però francamente... Non ti piace, non ti convince? No, non è che non mi piace, io non ho niente in contrario, a me piace Renzi, però anche qua... gli lettori di Renzi probabilmente non se lo ricordano neanche che cosa dice Renzi, il suo programma di governo, però ecco, gli credono, pensano che voglia, che possa fare, che abbia un disegno, una qualche idea di futuro che appunto per noi non è chiaro quale sia, e gli danno del credito e del tempo, perché poi è quello che non danno più a Berlusconi dopo che gli hanno dato per 20 anni. Però non c'è più il... se non vengo, come dire, giudicato troppo a lato in questo mio ragionamento, quello che ci ha abbruttito tutti e che rende brutti e popolati da brutti anche questi talk show è proprio che l'idea che il futuro non sia che un angoscioso confronto col presente, cioè si percepisce sta roba, non so come dirlo, va bene, non c'è più l'ideologia, però non ci sono neanche più le idee, perché alla fine le idee sono la politica. E tempo fa ci si lagnava, faccio un esempio appunto a lato, perché i bambini aspiravano a fare i calciatori anche per via dei guadagni, quando ecco per la mia generazione magari aspiravano a fare l'astronauta o l'uomo di Stato, insomma. Ecco, adesso c'è il rischio che a vedere questi talk show e con i modelli che abbiamo da grande vogliono fare il pareggio di bilancio, vogliono abbattere lo spread, insomma. Mario Monti voglio dire. Da grande, sì, vogliono ecco, salire in politica. Ecco, voglio dire, da smettere di far figli. Filippo, vorrei ascoltare insieme a te, insieme agli ascoltatori, un brevissimo, proprio qualche secondo, di un estratto di qualcosa che tu stai facendo. La crisi economica influenza la libertà di informazione? Secondo me sì, e vi dimostro come. Per esempio, no? Su cosa si basano i giornali lo sappiamo tutti: vendita, copie e o pubblicità. Voi avete mai letto, per esempio, un'inchiesta seria in Italia sulle acque minerali? Voi sapete cos'è in Italia la lobby delle acque minerali, considerando oltretutto che l'Italia è il più grande consumatore di acque minerali del mondo? Provateci. Anche perché l'agenzia pubblicitaria vi direbbe: no, ma scusate, ma proprio oggi che abbiamo una paginata, oppure quest'altra paginata, perché fanno tanta pubblicità le acque minerali, ne fanno tanta, tanta. Sì, ma non hai fatto partire il cronometro, però, per cui adesso noi andiamo a occhio, dovevi far partire il cronometro, ma vabbè. E questa è Libero TV. Filippo, io ho espunto le parti in cui spiegavi qual era il quotidiano, perché ovviamente tu spiegavi per bene che tu stavi parlando di quel quotidiano, ma si poteva, insomma, generalizzare il discorso. E sembrava un discorso, cioè, detto da noi, insomma, sarebbe sembrato un po' strano un attacco a un quotidiano in particolare, però, insomma, in realtà, appunto, la questione era generale. Filippo, ti chiedo solo un attimo di pausa, perché voglio farti raccontare un po' di questo esperimento. È carino anche il fatto che tu sei assolutamente libero e ti libero, insomma, certo, un gioco di parole non voluto, e ti rivolgi direttamente a chi ti riprende e dici: beh, non hai fatto partire il cronometro, dovevano essere 5 minuti. Peraltro poi posso dire sei stato bravissimo, perché hai fatto 5 minuti spaccati, così, ma cioè, anni di televisione alle spalle, quello è vero. Allora Filippo, ti chiedo solo un attimo di pazienza, perché noi ci interrompiamo per qualche istante e poi saremo ancora insieme, sempre con Filippo Facci. Ho ancora un paio di cose da chiedere appunto a Filippo Facci, chiocciola Filippo Facci C1 su Twitter. A tra pochissimo. Radio Tube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro Radio Tube, ancora con Marta Cagnola, ancora con Daniele Bellasio. Marta Cagnola, sì. Et di Bellasio, ancora con Filippo Facci al telefono, con editorialista Filippo Facci di Libero. Chiocciola Filippo Facci 1, Filippo, perché Filippo Facci normale te l'avevano rubato? C'era già qualcuno? Sì, c'è sempre Bono, capito chi sia, però esiste. Allora, prima della pausa abbiamo lasciato questo cliffhanger, questo finale in sospeso agli ascoltatori. Abbiamo ascoltato un estratto da una rassegna stampa molto particolare che tu hai fatto per Libero TV, quindi la TV via web del tuo quotidiano. È una... noi parliamo spesso dell'informazione che viaggia in rete, della televisione, esatto, degli esperimenti. Che cosa rappresenta per te? Mi pare un bel esperimento, una cosa bella di espressione e anche di libertà di utilizzare il mezzo. Per me rappresenta una rottura di palle perché devo alzare la mattina presto e me l'ha chiesta Bel Pietro che voleva che io intervenissi sul web e vabbè. Poi allora già che c'ero l'ho fatta proprio con le mie mani, nel senso che le lampadine che illuminano lì ho portate da casa, la scenografia l'ho portata io da casa pure quella, e i giornali sono appesi al muro di un corridoio di Libero, per cui insomma la telecamera costa 400 euro, questa è la TV del futuro e del presente, se è questa la domanda. Poi allora mi sentite? Sì, sì. Siccome mi sono accorto che francamente la rassegna stampa di tipo tradizionale aveva rotto le palle, appunto, e ho provato a fare recensioni diverse, andando sia sulla stampa locale dove c'è un mondo pazzesco e soprattutto molto più reale di quello che è spesso dipinto dai grandi quotidiani nazionali, e poi ho in qualche caso recensito anche la pubblicità, diciamo come senso figurato del fatto che in Italia siamo indietro di una trentina d'anni in questo, perché noi pensiamo ancora che criticare il potere sia prendersela coi politici, quando invece negli Stati Uniti i cattivi nei film sono sempre i lobbisti, sono sempre i proprietari di grandi industrie. Ecco, siccome è la pubblicità che tanto più e sempre più, anche se per alcuni aspetti purtroppo sempre meno, tiene in vita i giornali e i media, nessuno si occupa di verificare che quello che ci viene comunque comunicato nell'era della comunicazione attraverso la pubblicità sia reale, sia serio, non faccia ridere, sia fallace, e quindi in questo caso lì recensivo, cioè, facevo dell'ironia sul fatto che per esempio in Italia nessuno fa mai delle rassegne, scusate, delle inchieste sull'acqua minerale, nonostante sia il paese che ne consuma di più al mondo, e questo perché c'è una lobby delle acque minerali fortissima e incredibile, pur ci sarebbe da dire tantissimo sulle acque minerali italiane, altro che la pizza della Gabanelli. Filippo, ti faccio un'ultima domanda, ti devo proprio provocare, se domani, stai attento, mamma mia. Vi lascio soli? Poi in radio, se adesso qualcuno ti telefonasse e ti offrisse un talk show dopo che hai scritto che non sono i talk show che sono morti e la politica è morta, dicesse Filippo Facci viene a fare un talk show politico? Gli risponderei come si risponde dopo aver compiuto i 40 anni di età. Io tra poco. Filosoficamente. Quanto pagate? Finalmente, ecco, torniamo alla ciccia. Le cose reali. Non si parla della sostanza, giusto. Finalmente ne abbiamo parlato. Giusto, viva Filippo Facci. Io allora ringraziamo. Posso dire che se qualcuno chiama Filippo Facci si prepari con il portafoglio. Esatto, e non solo, se io vedo Filippo Facci a condurre un talk show in televisione, capisco che l'editore ma magari al mio posto potresti volerlo. Chi lo sa. Ciao Filippo, preparati. Grazie mille. Grazie per essere stato con noi. Insomma, a presto, a fra un po'. A fra un po', dai, centellinando. Grazie Filippo, ciao. A presto. Ciao. Oh, che meraviglia. E adesso? Meraviglia. Allora, parliamo di sport, però sempre con quello. Proseguiamo con il nostro RadioTube perché vorrei parlare di sport. Però sempre con lui, chiodo fisso proprio. Sì, io vorrei parlare ancora di lui. Non ne posso più. E lo so, ne parliamo in tutte le puntate, Daniele. Non se ne può più. Però... è onnipresente. Adesso si occupa anche di sport. È andato a tutti i talk show questa settimana praticamente per rianimarli. È andato a tutti i talk show pur di rianimarli. È andato anche a salutare le bravissime ragazze della nazionale di atletiche. E poi si parla poco di questo sport. È ingiusto. L'ha detto anche lui, però aspetta, si è fatto il selfie, sai? Questo non è proprio una novità, eh? Abbiamo l'audio del selfie. Il che è tutto dire, eccolo. Vai, io invece questo ci gioco. Aspetta. Ok. Ciao. Ecco, questo è l'audio del selfie. È un non audio. È un non audio di Mion V. Non diciamo chi era. Ma si capisce che si sono fatti... Dai, diciamolo, vabbè. Era Matteo Renzi. Che stupore. Non ne parliamo mai. Che strano. Che ha detto una cosa molto... una fiducia in Senato e un Jobs Summit europeo è andato a vedere la pallavolo. E perché no, dico io. E soprattutto ha parlato di pallavolo. Come? Interessante. Con riferimenti culturali di altissimo livello, immagino. Come al solito, sentiamolo qua. Loro stanno coronando il sogno di decine di migliaia, giusto Presidente? Ragazze che tutti i giorni vanno in delle palestre scalcagnate, non in questo meraviglioso forum a giocare, a rincorrere, a fare un bagger, a fare una battuta, a tentare di dimostrare che la pallavolo può essere non soltanto uno sport ma un'esperienza di vita. Io penso questo dello sport dei ragazzi, delle ragazze, e credo che la pallavolo entri nelle case della stragrande maggioranza degli italiani. Purtroppo noi non la consideriamo quanto dovremmo, è veramente un qualcosa che riguarda tantissimi studenti e studentesse, soprattutto studentesse, insomma da mille sciro in giù. La nostra generazione è cresciuta con i sogni della pallavolo. Da mille sciro in giù, capisci? Da passo dopo passo a bagger dopo bagger. Vabbè, un'esperienza di vita. E comunque dietro c'era il nostro amato Filippo Sensi che c'era? Compulsava nevroticamente il regolamento della pallavolo, secondo me, per suggerire delle cose. Va bene. Sì, sì. Mi spieghi una cosa, Daniele? Sì. Senti, cosa? Ma perché tutti stiamo parlando di Emma Winter Agnelli? Sì. Perché su Twitter, diciamo così, ha detto che Totti sarebbe stato il caso che giocasse altrove. Insomma, non è stata gentilissima con Totti, peraltro Totti non è stata gentilissima nei confronti della Juve. Questa settimana è stata la settimana dello scontro tra la Roma e i romanisti e la Juve e gli juventini. Io riguarderei quello che ha detto Totti perché che ha provocato la reazione quello... su Twitter di Emma Winter. Eccolo qua, allora sentiamo cosa aveva detto Francesco Totti. Brutto dirlo, ma sono anni che capitano sempre stessi episodi. E alla fine ci condizionano le annate. Stai dicendo, traduco il tuo pensiero, che siete stati battuti dall'arbitro? Ma non so se è l'arbitro o meno, però non dalla Juve. Dovrebbero fare un campionato a parte, perché tanto o quelle buone e quelle cattive vincono sempre. Tra il dubbio e il rigore è sempre rigore. Cioè, se fosse stato al contrario, il minimo dubbio rimane dubbio. Ah, quindi allora il capitano che ha sempre ragione. Te, obiettivamente, secondo te ha esagerato o no? Perché... Io sono romanista, secondo te obiettivamente no, ha esagerato? Ma obiettivamente, no. Cioè, no. Ha detto le cose dure, era la fine della partita, era incavolato. Sì, cioè... sì, no, anche perché secondo me c'è sempre l'impressione che Totti debba essere come il sesso degli angeli. Esatto. Sì, no, si arrabbia anche lui, a volte le fa. Tra l'altro si è arrabbiato dicendo delle cose, boh, non lo so. Vabbè, comunque, insomma, però la signora Winter sono per Agnelli la libertà detto... di parola sempre, parleremo anche sì, domani la signora... con un ospite pazzesco. Mamma mia, domani che ospite. La signora Agnelli, che peraltro si fa dei selfie pazzeschi. Voglio esprimere delle opinioni diciamo maschili, però. Però insomma... meritano questi selfie, sì. E niente, è combattiva. Ma io apprezzo anche il fatto Totti che anche gli juventini debbano la Juve essere. Dovrebbe fare un campionato a parte lei, ha detto lui dovrebbe andare a giocare altrove. Sì, altrove, ecco. Vabbè, tutto altrove. È bene quello che finisce con la prossima giornata di campionato. Vorrei concludere questo blocco con una grande, meravigliosa notizia. Qual è? Straordinario. Un personaggio o una notizia? È una notizia. Tu saccheggi le scalette a caso. Tu sei dadaista nelle sì, scalette. Io lo faccio sta prendendo la scaletta di Cruciani di martedì scorso e adesso c'è un pezzo di Cruciani. Lo dico apposta perché la cosa più... voi non lo potete sapere. È la mia faccia. È lo sguardo smarrito, gli occhioni smarriti di Daniele Bellasi. La notizia è che finalmente Crozza ha ricominciato a farmi ridere. Siccome la notizia è clamorosa, lo mandiamo subito. No. Spieghiamo perché mi ha fatto ridere. Perché? Perché ha azzeccato l'imitazione di Viperetta. Chi è Viperetta? Siamo sempre sul calcio. Io lo invidio molto. È presidente patron della Sampdoria. Sì, Ferrero. Ferrero. Molto bravo, perché lui, nonostante non sia propriamente di Genova, no? Si è capito che proprio. Sì. Però lui, per esempio, tutti i sabati va a seguire gli allenamenti, a differenza di un altro presidente di una squadra nerazzurra che ogni tanto. Ha capito. Però allora non comprare, vabbè, lasciamo stare. Comunque sono in una settimana complicata su questo punto. È sicuramente il personaggio del calcio del momento. Cosa sentiamo? Sentiamo come Maurizio Crozza ha imitato questo straordinario Viperetta. Buonasera Ferrero, presidente della Sampdoria, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Sì. Forza. Sì. Sampdoria? Certo. Sempre? Sempre, senz'altro. Lasciatemelo dire. Sì, no, anzi, se vuole approfittare di dire quello che vuole. La famosa squadra. Sì. Quei colori. Sì. Bruciacchiati. No, blu cerchiati. Però se vuole. Sampdoria? Sì. È ormai casa? Dai. Cosa? E casa dai. Come si dice queste parti? Ecco. Forza Doria, forza Lupi, sossepolto da Limutui? No, a Genova non si dice così. Io lo trovo fantastico, è ci meraviglioso. Ci voleva il Viperetta, Viperetta, ma guarda, si è rianimata Crozza, la vena comica. Sì, adesso preparatevi perché vi faccio riascoltare Crozza a tutte le puntate di RadioTube se va avanti così. Speciale Ferrero. Abbiamo ancora solo pochi minuti per restare insieme. C'ho una sorpresa nell'ultimo blocco. Ho paura. Ma vabbè, una cosa Rimanete lì, ascoltate il traffico, poi noi torniamo con l'ultimo spicchio del traffico, nostro RadioTube. Traffico. YouTube. Come vola il tempo, ma quando non si... Ma dovevo dirlo io? Ah, lo dici tu, va bene, sembriamo una coppia sì. comica ormai. Come vola il tempo quando ci si diverte con Marta Cagnola, Filippo Facci, et Marta Cagnola, et Di Bellasio, et Filippo Facci 1. Ti è piaciuto avere Filippo Facci? Molto, mi è piaciuto. Sì. Adesso dobbiamo parlare di un argomento delicato. Pensa che stavo dicendo, ma che romantico che abbiamo una scaletta sola, com'è carina questa puntata. Non, però due microfoni. Non ho finito neanche di esplicitare. Se l'è portata via la scaletta. Dobbiamo parlare del fatto che sui social network questa settimana si è parlato molto di un tipo di protesta che viene definita la protesta delle sentinelle in piedi. Io ti dico la verità, non sapevo che fosse stata organizzata questa manifestazione. Quindi io ho aperto Twitter, ho cominciato a vedere l'hashtag sentinelle in piedi. Con una certa violenza, sì. possiamo dire dei tweet con una certa violenza. E ho scoperto poi che erano stati organizzati questi, si può dire sit-in quando uno è in piedi? Stand-in, di persone che leggevano semplicemente, sì. E che intendevano in questo modo protestare contro il riconoscimento delle unioni che non siano la famiglia tradizionale e contro le leggi contro l'omofobia. Quindi insomma, la protesta a me è sembrata una protesta al netto del fatto che poi in alcune circostanze, per esempio a Bologna, insomma, sono successi dei fatti di difficile individuazione e controllo nei responsabili, quindi al netto di tutte queste cose non mi è sembrata una protesta, diciamo così, scandalosa, mi è sembrata una protesta molto particolare su temi molto delicati. È successo, per esempio, come sai, che a Brescia un signore, è stato su tutti i siti questa settimana, mm-hmm. si è vestito da nazista. A Bergamo, è vero, ho sbagliato, brava. Un ragazzo si è vestito da nazista, diciamo. Sembrava così. Sembrava da nazista. È stato. Aveva una copia del Mein Kampf. Sì. Era vestito da nazista. Sì. Più o meno. Ed è stato prelevato dalla Digos, fermato, è stato identificato. E alcuni giornali hanno scritto effettivamente che era vestito da nazista. Sì. Bastava aver visto i Blues Brothers, eccoli qua. Ehi, che sta succedendo? Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione. Quali figli di puttana? Quegli stronzi del partito nazista. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. Sì, signore. Ruppenführer! Sì, signore! Prendi il numero di targa di quella macchina! Sì, signore! Dobbiamo eliminarlo, quel figlio di puttana! Beh, era una citazione, sì. da Blues Brothers. Ovviamente io la macchina passa, fa cadere tutti in acqua. Sì. E poi non aveva la svastica sul braccio. Cioè lui aveva praticamente una doppia croce, una doppia X, che è il simbolo che aveva Charlie Chaplin nel Grande Dittatore. Però la cosa grave non che non l'hanno riconosciuto, non solo che non l'hanno, ma che molti giornali non se ne siano accorti. Però sai, Marta, qual è il problema? Te lo posso dire? Sì. E così ti regalo la sorpresa di retro social di questa settimana. Sì. E che spesso non ci si capisce più niente, perché viviamo in una specie di melassa informatica dove accade qualunque cosa. Io stesso sono arrivato a ricostruire il racconto della protesta e della controprotesta nello stesso tuo modo, cioè vedendo che su internet si parlava tanto di questa cosa. Quindi forse facciamo fatica a capire le cose perché viviamo in una sorta di bolla informatica. Ma questa cosa, cioè, adesso io lo so dove vuoi arrivare, perché non è proprio nuovissima. Non è nuova, perché una delle cose più belle che la rete ti permette di fare è di andare indietro a ritrovare chi un tempo non troppo ravvicinato aveva capito tutte queste cose. Il tempo non troppo ravvicinato, grazie che me lo sottolinei, è il 27 giugno del 1994, niente poco di meno che... Ed era il... E poi dopo anche il 23 ottobre sì, due, del 95. Due date. Tutti e due questa, li vediamo? Sì, no, quella che abbiamo noi è del 95. Ah, questa erano del 95. Faccia faccia. Lui è... Uno contro tutti. Vabbè, lui è... Lui, niente. Carmelo Bene. E lui aveva capito molte cose. Lui era ospite di Maurizio Costanzo. In quelle puntate fantastiche che noi di quelli di, della nostra generazione poi lo raccontiamo, diciamo, poi lo raccontiamo. Registravano perché ecco era straordinario. Cosa diceva? Cosa diceva Carmelo Bene nel 1995? La storia è davvero una cosa raccontata da un idiota. Strepito e furia con Macbeth, per dirla, che non vuol dire niente. Quindi la narrazione storica dei fatti. Poi si illudono, siccome ci sono i computer, siamo nell'apogeo informatico, siamo su questo vivi di nulla, tutto sommato. I tempi si stringono così che anche la storia può essere letta e riletta anche nell'immediato, no? La storia è fuori dall'immediato, è fuori dai fatti, la storia è sempre nella narrazione dei fatti. Beh, i tempi si stringono così la storia può essere letta anche nell'immediato, siamo che in questo dire. Apogeo informatico, vabbè, 20 anni fa, ma sembra, non ti dico ieri, sembra domani. Mica per nulla. Sembra domani. No, io prima l'ho detto che poi lo raccontiamo, che abbiamo scoperto che entrambi da ragazzi registravamo il Maurizio Costanzo Show la sera e poi lo guardavamo il giorno dopo perché eravamo troppo piccoli per guardarlo. E ne parlavamo tanto con la mamma. Sì, ne parlavamo tanto con la mamma. Un'altra cosa che mi hai segnalato questa settimana, perché non ho capito perché una sera ti è venuto di guardare cose antiche. No, questo l'hanno antiche. Facebookato. L'hanno Facebookato. Carmelo Bene l'ho trovato perché sono andato a cercare. Perché appunto la rete ridà vita a una televisione del passato, è come un'enorme teca che infatti peraltro questi la cosa video fa hanno moltissime visualizzazioni. Carmelo Bene era più sì, di 100.000 sì, stiamo sì, parlando tante di visualizzazioni, e poi sì. A un certo punto sempre lì su Facebook ho visto questa trasmissione e mi ha ricordato un po' la nostra, no? Match si chiamava. Sì, guarda, proprio sono uguali, due personaggini così di sì, appena sì, usciti sì. Dall'università sì, no, il più grande scrittore contemporaneo di allora che era Alberto Moravia, poi un grandissimo poeta saggista, critico, che era Edoardo Sanguinetti. Ma che, troviamo un conduttore a caso, prendiamo un conduttore a caso. Ma sì, uno che passava di lì, un certo, come si chiama? Arbasino. Brava. Un certo Arbasino, stiamo parlando del 1977. A che ora andava in onda? Sai che questo è... Adesso lo troviamo, a che ora andava in onda esattamente Match. Era un preserale. Tipo i nostri sì, game l'eredità show. La cosa meravigliosa tocca. È ascoltando questo che è una parte del preambolo di Arbasino, insomma sembra che all'ordine del giorno il tormentone sì. Il dubbio che attanagliasse gli italiani qual era? Ma era una cosina da niente. Avanguardia stai serena. Eccolo qua. Dunque, da parecchi mesi in qualunque giornale italiano ogni giorno, ogni settimana c'è un numero infinito di articoli che discorrono del ruolo degli intellettuali. Questo tema sembra veramente che non abbia mai fine, anche perché viene discusso costantemente in termini teoretici e con sostantivi astratti, e spesso questo fa venire in mente che il pensiero astratto che si esprime in termini teorici è una costante degli intellettuali italiani, ma anche in epoche più recenti, per esempio l'idealismo napoletano, per esempio l'ermetismo e addirittura oggi le generazioni giovanili del cioè portare avanti, cioè il discorso, cioè nella misura in cui. Vorrei che cominciassimo a parlare concretamente del ruolo degli intellettuali, questo tema, questo tormentone della società culturale italiana di oggi. Cioè il tormentone della società di oggi. E soprattutto parliamo concretamente del ruolo degli intellettuali. Io ridatemi subito Match. Ridatemi subito trovatelo Alberto Arbasino. Su YouTube scrivete Match. Poi dopo c'era parentesi 1, non so perché. Poi c'erano delle cose strane. C'erano delle trovatelo. Cose, però trovatelo perché i baffi è di Arbasino erano strepitosi. E quando Arbasino dice a Alberto Moravia il più grande scrittore, e lui non fa un plissé. No, non fa un plissé, come dire, sono io. Alberto Moravia, 18 anni scrivevo, che so, gli indifferenti. Ma è una puntata straordinaria. Allo stadio. Anzi, sai che io adesso me la vado a rivedere. Mentre andiamo a casa? Mentre è andiamo finita? A casa? Sì, è finita. Però domani? Non avere tanta nostalgia, perché domani abbiamo un sì, sì, guarda, uno dei miei preferiti. Le star, perché la domenica ci sono le star. Dalle 15 alle 15.30. Lo dici- dai, diciamolo che abbiamo. Diciamolo che abbiamo. Lo diciamo. Diciamolo. Domani abbiamo un comico straordinario, ma soprattutto un uomo straordinariamente intelligente che è scrittore. Natalino Balasso. Domani. Che si è fatto la sua televisione. La sua tele Balasso e scopriremo Balasso. Come e perché. Allora, ci ritroviamo domani alle 15 ancora con RadioTube. A domani. Ciao.